Ammazzare la noia è il nostro solo mestiere. 24 mattino, l'Italia si desta, di Alessandro Milan. Noi vogliamo elettori, siamo per la riforma, uninominale, secca, l'inglese, con doppio turno, la francese e il ballottaggio, e lo scorporo del proporzionale al Senato e alla Camera, per il presidenzialismo e il cancellierato alla tedesca, il problema alla Sartori, e vogliamo il presidenzialismo all'americana con la soluzione alla francese e l'uninominale all'inglese, i bucatini alla matriciana e la bistecca alla fiorentina, e noi vogliamo elettori il bagno alla turca. Berlusconi è stato assolto. Sì, siamo felici ovviamente, no? Una cosa che ci aspettavamo, la conferma è un fatto estremamente positivo. Un processo morale come quelli della Santa Inquisizione con gli strumenti di polizia giudiziaria dove non c'era un reato. Con questo modo si porta in tribunale chiunque. Mentre nella stessa Milano ci sono bande criminali che spacciano droga, bande criminali che gestiscono veri racket di prostituzione sui marciapiedi vicino a Piazzale Loreto. Di tutto questo io non vedo nulla, perseguito dalla Procura di Milano. 5 anni, un pool scelto di magistrati antimafia, la Boccassini si è impegnata a intercettare cosa faceva nel suo salotto Berlusconi. Già mi ha ripreso Vincino subito appena alle 6.30 del mattino uno arriva, twitta le cose e Vincino subito mi riprende. Ma insomma io ho scritto così, ho aperto i giornali oggi, il Fatto Quotidiano, il Giornale, ma un po' tutti. Siamo un paese ossessionato da Berlusconi, ossessionato da Berlusconi, nel bene e nel male. E quindi ho chiosato su Twitter con un francesismo che siamo un paese di merda. Perché obiettivamente, però io lo so che questo vale per pochi giornalisti, per un certo circuito di intellettuali, pseudo intellettuali, io lo so dentro di me che la maggioranza di voi, dei miei ascoltatori, non è così. Voi lo so, non siete ossessionati da Berlusconi, voi siete giusti, voi non siete malati, voi siete bravi, voi siete sani. Voi siete portatori sani di bellezza e quindi lo so che siete meglio come me di questo paese di... Lo so che siete meglio, lo so, io confido in voi. A voi non interessa granché tutta questa vicenda, la seguite come è giusto seguire le vicende di un paese, per carità, e quindi se ci sono delle vicende giudiziarie si seguono, ma non siete ossessionati quando vi svegliate al mattino dal sapere se Berlusconi faceva, non faceva, se. Non siete così, voi siete meglio di quello che vi rappresentano i giornali, lo so. Vero Vincino? Vero? Anche tu sei meglio di... Noi personalmente penso di sì, no? Sì, certo, ma tu sei molto meglio. Molto. Però, buongiorno, Vincino. Non ci mettere la mano sul fuoco. Ecco, va bene, però ci giochiamo mezzo euro. No, vabbè, ma meglio di questa riforma della scuola, quella è una cosa, guarda. Che... Sì, aspetta la riforma della scuola, dai, andiamo con calma. È la 97esima settimana decisiva che si chiude per la riforma elettorale e l'abolizione delle province, nulla di fatto, va bene. Saluto Lorenzo Nespoli in redazione e Pietro Lacorte oggi in regia, li ho fotografati e li ho messi su Twitter sul mio profilo Alino Milan, potete andare a vederli. Con questi due soggetti sbaragliamo la concorrenza in qualsiasi concorso di bellezza per programmi radiofonici. Dai, apra il Parlamento, caro Pietro, che c'è anche il vice direttore di Panorama. Quindi semmai ci vediamo subito dopo il ministro Boschi che beve il caffè, è Maurizio Tortorella che arriva, eh? Eccolo. Ciao Alessandro, buongiorno a tutti. Tu sei meglio della rappresentazione dei giornali di questo paese? Io sono nei giornali di questo paese, quindi non lo so. È difficile dirlo di se stesso. No, per l'ossessione di Berlusconi, dico. L'ossessione di Berlusconi, hai tu ragione a dire che l'argomento ha stancato. Non si può non convenire. Va anche detto che la vicenda processuale berlusconiana è una delle grandi anomalie di questo paese, perché un uomo che è stato processato per 40-50 volte, quindi molto più a lungo e molto più numerosamente di quello che è accaduto a Totorina, francamente lascia un po' perplessi, vogliamo dire almeno così? Ma sì, guarda, poi basta. Cioè basta per me, però in realtà continua, oggi i giornali ancora aprono su questo. E voglio dire, io capisco anche l'inquietudine, è qualche cosa di più che una perplessità, ma anche l'incazzatura, se vuoi, di chi dice e sostiene quel processo con il lago di melma che ha rovesciato in giro per il mondo, perché questo, di questo si è trattato, ha modificato profondamente e ha alterato per sempre la vita parlamentare e politica di questo paese, perché è un dato di fatto che è quello. E vabbè, ma comunque non è ancora finito, non è ancora finito, andrà avanti all'infinito. Staremo a vedere. Vincino, cos'è che non ti piace di questa riforma della scuola? Cosa non va bene? Ti sei occupato della riforma della scuola? Non ci posso credere. No, come stamattina. Ma tu come andavi a scuola? L'ho sempre rimandato in una materia, cioè? O due. Alla maturità fui rimandato in matematica ed educazione fisica. Come si fa? Scusa, intanto alla maturità come fai a essere rimandato? Cioè sei stato bocciato? No, a quei tempi alla maturità si veniva rimandato. In educazione fisica? Come mai? Non facevi bene le capriole? Ma cosa hai fatto? Aspetta, all'inizio ebbi un terrore, perché matematica e fisica. Poi lessi meglio e capì che era educazione fisica. E allora via. Matematica però era importante. Matematica era dura, perché era una stronza di quelle, quando uno trova una professoressa di matematica stronza è finita. Uno può essere bravo in italiano, in latino, in greco antico, in tutto, perché ai tempi del 1923 portavo 3 anni tutti insieme, insomma. Riforma gentile, quella sì, che non cacciano di riforma. Anche oggi io prenderei un filosofo, che per dire, uno Cacciari, gli affiderei 6 mesi, fammi una riforma della scuola e via, gli fa una grande riforma epocale, non sta stronzata, fino alle classi pollai. Io mi chiamo Gallo e vabbè. È vero, Vincenzo Gallo si chiama. Vicino è Vincenzo 30, Gallo. Elementari eravamo in 30, ma stavamo benissimo. Poi qui abbiamo Maurizio Tortorella, abbiamo Vincenzo Gallo, Maurizio Tortorella e parliamo di classi pollaio. È una voliera, più che una classe. È una voliera. Comunque, Tortorella, adesso se indaghiamo scopriamo che Vincino è finito in carcere anche per educazione fisica. Avrà commesso qualche reato anche a scuola, secondo me. Vincino mi è sempre più simpatico, perché delle due materie rimandate, ginnastica, la trovo strepitosa. Ti sei diplomato, sì, Vincino? Assolutamente sì, sono anche salito a Monte Pellegrino a piedi da Santa Rosalia. Come si fanno le ripetizioni di educazione fisica per rimediare poi all'esame di riparazione? 4 saltelli, che cose qua, no? Facevi la pertica. Faceva la domanda, la squadra A deve tirare il pallone dove... nella cosa B. C'è la teoria, cioè incredibile. La teoria che era pesante. Scritto e orale. Vabbè, però non ho capito che cosa non ti piace di questa riforma della scuola. È una riformicchia. Ma, perché non è una riforma di niente. Che riforma è? Non lo so, c'è un po'. La vera riforma, che piaccia o no, è se riescono ad assumere 130, 100, 120 mila. Ma questa è una cosa di sindacalismo. Un assestamento normale, che dove hanno vinto il concorso, stanno lavorando là, e vaffanculo, prendi. Finora sono precari. Io lavoro 10 anni là, come dire, non ho capito. Ma rompere le scatole, che è la riforma? Ma è giustizia sociale normale. Ma finora non si è fatto questo, dico. Non so, Tortorella, capito, se si facesse questa cosa, mettiamola in politica. Se Renzi riuscisse a fare assumere dei precari dopo, che hanno i diritti. Ma dice, i soldi, e falli assumere, non rompere le scatole. Ho capito, finora non si è fatto. C'è lo spread basso, c'è il tesoretto. Tortorella, di qualcosa. Sì, io io allora capisco perfettamente il punto di vista soggettivo degli insegnanti precari, per carità, è una delle grandi vergogne di questo paese. Però i professori sono tantissimi, cioè il rapporto tra studenti 7.862.000 qualche cosa e il numero di insegnanti in organico che sono più di 700.000 è il più alto nella media europea. Sono troppi. Tantissimi obiettivamente. Ma che bisogna fare? Bisogna trovare i soldi e assumerli, come dice Vincino, perché sicuramente sarebbe un atto di giustizia, questo è dubbio, perché voglio dire, appunto, uno che sta precario per essere precario per anni, francamente ha una posizione e come si dice in questo paese, dei diritti acquisiti, da cui un'espressione che a me non piace, ma insomma di questo si tratta. Però sono troppi. Sono tantissimi, è comunque una riforma slenca, perché se dice da una parte il merito, ma il merito chi lo stabilisce e come viene fatto? Ma questa cosa del merito nello stipendio prima doveva incidere per il 70%, adesso forse per il 30%. Sì, e poi regala questi 500 euro al mese che dovrebbero servire ad andare a teatro a comprare libri, ma che diavolo di roba è? Non lo so, Vincino, che vuoi dire? 500 euro al mese che ci fai? Manco il computer compri. Ma che 500 euro al mese? Ma che scherzi? Hanno fatto un casino per gli 80 euro. Che ci diventa, se lo possono usare come vogliono va bene, no? Li possono usare come vogliono va bene, ma dico come dico, ho capito, riforma, ma hanno fatto. Cosa. Ma han la fatto... riforma è un'altra cosa, la riforma è una cosa diversa. La riforma è gentile, quella era. Bocciata la riforma del Sinistro. Posso dire un'altra cosa che mi renderà molto popolare? Sì, che c'è, Tortorella? No, un'altra cosa che mi renderà estremamente popolare. Io quando ieri sera ho visto le proteste degli studenti e ho sentito dire le solite emerite stronzate, perché noi non vogliamo la scuola venduta ai privati, questi poverini sono vittime. Le contestazioni degli studenti è qualcosa. Ma non hanno la più pallida idea di quello che dicono. Fa parte del colore, come il Palio di Siena, due volte all'anno. Ma sono vittime di se stessi e di cattivi. Fatelo dire da Vincino, che è finito in carcere per queste contestazioni. Sei solidale con gli studenti? Assolutamente sì, io appunto, c'è un disegno che ho pubblicato ora, io ho cominciato nel 64, piano sì, Gui no, c'era il ministro Gui, democristiano di quelli corrotti. Che poi ma che corrottissimi, no, ma non dire queste cose. I democristiani erano tutti corrotti. Non erano, come dire, avevano la diversità morale che avevano via. Uno peggio dell'altro, anche quelli più onesti avevano i sottosegretari che gli facevano gli imbroglioni, aveva poi Preato che rubava, era così, era la storia della DC. Andreotti aveva i piccoli assassini dietro che eliminavano quelli che avevano fastidio. Fa satira. Come House of Cards, così era. L'Italia era precisa, è precisa così, è uguale, identica. Non è cambiato niente. Questa riforma se l'è fatta nel chinello, lui e sua moglie, dai, cosa ha preso? E quell'altro, no. Poi naturalmente i soldi, infatti ha ragione Tortorella, no? Ma che vi frega questa cosa che dà due lire alle scuole private, dai? L'ha sempre date, l'abbiamo sempre date. Cosa c'è di male se un'azienda distrugge una scuola? Cosa influisce? Cosa diavolo influisce una scuola? La riforma sulla scuola non vi piace tantissimo, ma no. Io ho un eroe. Ho un eroe personale che si chiama Gennaro Marotta. Non so, non avrete sentito delle sue. Marotta loro di Napoli, no? Gennaro Marotta, consigliere regionale dell'Italia dei Valori, esiste ancora, credo, in Veneto. Ha deciso, caro Vincino, di restituire, dice, i 500.000 euro maturati di vitalizio. Non li voglio. Ma non è che li ha già presi e poi dopo perché non ti chiederò mai. Se mi arriva nel mio conto 500.000 euro. Ma vedi, uno come la fa, la sbaglia. Ha detto non li voglio, ecco, veni indietro. Non sono ancora arrivati, perché se quelli fossero già arrivati nel conto, andare nei buchi che ha già fatto, no? Poi dopo non riescono a tornare indietro. Il problema degli italiani è questo, insomma, non fateli arrivare. Allora uno può rifiutare, se non gli arrivano, vabbè. No, ha detto non non lo stanno chiamando tutte le TV, lei dice no, non mi spetterebbero a 60 anni, non li prenderò. Va bene, no, però ne ha 45, per cui tra 15 anni non li vorrò, ma lo so. Ma Tortorella, ma insomma, ma ho capito, ma uno ma allora non ci dobbiamo più fidare di niente, ha detto non cambierò. Come quelli, tutti quelli grillini che ora si vogliono la poltrona di ministro, vogliono quella di quell'altro, madonna mia, sono rotti le scatole. No, con i grillini ci arriviamo tra un attimo, aspetta. Vabbè, non si può neanche sperare che qualcuno non si fida. Dai, finzare dei valori, i peggio delinquenti la allora Di Pietro ha i peggio delinquenti in politica, l'ha messo lui. Uno bravo, uno decente, cosa non c'è stato. Salutiamo anche Antonio Di Pietro, dai, andiamo al traffico. 24 mattino. Grande Alessandro, io vado la mattina, tutte le mattine ti ascolto. Grande, avanti così, bravo. Alessandro, con Berlusconi adesso c'è profumo di soldi e sono tornati leccapiedi. Momento triste, nero. L'hanno abbandonato, adesso sono tornati leccapiedi perché un gran profumo di soldi. A Berlusconi, stai attento che non è vero che ti vogliono bene, come hanno detto. Alino, dimmi perché quando ascolto, ascolto solo te. Ma mi viene un dubbio, ma non è che la persecuzione giudiziaria nei confronti di Berlusconi corrisponde ai suoi più o meno malavitosi comportamenti? Ma forse quest'uomo qualcosina di compromettente l'ha sempre commessa? Ale, sei un mito, sei un mito per me. Solo anni che ti vedo, voce raggiungibile. Vabbè, Tortorella e Vincino è così. Esagerino, tutto della personalità qua. Te lo dirò in russo, il cult Lichnosti, il culto della personalità. Questo sfoggio di cultura, porca miseria. Vabbè, caro Vincino, beccati il Brunetta del giorno. Senti, sei il Brunetta del giorno, come gongola, sai che in 17-18 hanno firmato la lettera i verdiniani, no? Contro Berlusconi. Poi c'è stata la soluzione di Berlusconi. Senti come se la gongola Brunetta. Circolava una battuta ieri sui 18 che 22 hanno già ritirato la firma. La risata di Brunetta. In 18 hanno firmato, in 22 hanno già ritirato la firma. Che ci sono i 18 di Verdini, sì, 17 di Titto, sì. Come dire, no, e i 15 suoi, insomma, è un disastro là pure là. Si sta sfasciando, Maurizio, si sta sfasciando, Forza Italia. Ma è stato un anno in galera, poveretto, come dire, là, i domiciliari e così, era chiaro che quelli... Un anno, adesso andava il venerdì, non è che... Vabbè, ma non poteva venire a Roma quando voleva, non poteva andare in tutto il mondo, non poteva andare da Putin, da Cameron... A proposito di Putin, sapete che è 7 giorni che è scomparso? È scomparso Putin. No, è vero, è una questione serissima. Qualcuno dice addirittura sia morto, qualcuno che ci sia stato un colpo di Stato. Tortorella, guarda che qua succedono. Telefoniamogli, vuoi il numero di telefono? Dicono che abbia paura degli attentati, ho letto. Sì. Paura degli attentati? E che fa? Si chiude il Cremlino? Certo, sul Messaggero c'è una foto bellissima di lui a bordo di un sotto marino che guarda l'orizzonte con uno sguardo cupo, una roba da urlo. Però, altro che culto della personalità di Milano. Altro che culto staliniano. Però vi voglio far sentire un grillino, io voglio vedere se qui siete in grado di essere contro anche un grillino, anche in questo caso il grillino Airola, che ieri è intervenuto per difendere il divorzio breve in aula. Sentite, Il divorzio breve sfascia le famiglie. Ma io non lo so, cioè avete votato la legge Fornero, avete votato il fiscal compact, avete votato il pareggio di bilancio. Chi ha sfasciato queste famiglie italiane? Forse la BCE? Ma chi prendete in giro? Siamo stanchi di queste cazzate. Eccolo qua, è partito così, Vincino, che c'hai contro i grillini? No, contro i grillini, cioè, come dire, vabbè, ora stanno scomparendo praticamente come etnia, no? come cosa. Non, etnia? Per cui, sì, sono un'etnia, un fatto etnico, non solo italiano, così, questa cosa qua curiosa, no? Con il profeta Genova che però si è rotto le scatole, quell'altro che non si capisce niente quando parla, che parla solo per algoritmi, è una cosa curiosa. Appena escono fuori vogliono poltrone, cose, se le stanno costruendo zac zac con la pialla, con la cosa, la piccola poltroncina. Cazzo, noi votiamo per il governo, scusami. Però c'è Di Maio, Di Maio è uno di quelli che preferisci di più, che com'è. Di Maio è vicepresidente del profumiere proprio. Vabbè, però in questo caso il divorzio breve ha ragione, cioè il divorzio breve è una battaglia di civiltà. È la battaglia radicale di sempre questa qua, che c'entrano loro, come dire. Cosa si dice degli orologi, Alessandro? Cosa? Che due volte al giorno? Che anche quelli fermi, rotti, due volte al giorno fanno l'ora giusta. Ecco, intanto qualcosa di giusto faranno anche loro. Giovanardi a cosa hanno 100 volte ragione, no? Come dire, non è che a Gasparri e Giovanardi hanno ragione, che ti possiamo... Ma perché sono un'etnia i grillini? Cioè? No, ma è scappata così, devo approfondirla, perché tante volte succede che mi viene un disegno e non lo capisco. Poi dopo un'etnia, vabbè. Gli viene un disegno e non lo capisco, è strepito. Ogni tanto trova dei disegni nel cestino e li manda, li tweet. Ho trovato questo nel cestino, un disegno su Ainis. Sì, era a terra, guarda, pestato, no, messo la poverino, ho detto Ainis. No, lo sai, perché lui non voleva, allora me lo ricordo, perché quando ci cercavano i nomi per la Corte Costituzionale, sì, ho fatto questo, ho detto no, per favore no, perché sembra che no, ha detto vabbè no, poi dopo apposta finì a terra e l'ho ripescato, tanto non è più impedicato, né per essere, niente, allora niente. Presidente della Repubblica, né per essere cose e via, no? Vabbè, senti Maurizio Tortorella, qua abbiamo 30 secondi, ma so che state iniziando a viaggiare, cosa fate con Panorama? Andate in giro per l'Italia? È la cosa spettacolare che abbiamo fatto l'anno scorso e che rifacciamo quest'anno. Panorama d'Italia. Sì, andiamo in 10 città, anche quest'anno si parte da Napoli il 25 marzo e poi ci saranno Vicenza, Pisa, Varese, Matera, Trento, Spoleto, Modena, Bari e Palermo. Perché sennò Vincino si arrabbiava di brutto. E andiamo a raccontare le città e le economie di queste città, ma non solo l'economia, che vogliono reagire alla crisi, con eventi strepitosi, da Vittorio Sgarbi che racconta le bellezze di un monumento o di un museo. Quando parla di arte è uno dei pochi momenti in cui è ascoltabile. È bravissimo, ma poi ci saranno chef, sfilate di moda, ovviamente convegni, incontri con personaggi e gente dello spettacolo. Girate per piacere su panoramaditalia.it. Provate tutte le tappe. Vincino ci sarai, sì. Se no stanno sempre poverini là, messi là all'ambrata nel palazzo di no, non li fanno uscire mai tutto l'anno messi là a Milano fermi a dover parlare solo del bar di Segrate e una volta all'anno via tutti in camper. Grande Vincino, approfondisci sta roba dell'etnia, poi facci sapere i grillini, l'ho già twittato ovviamente, i grillini sono un'etnia, va bene, vi saluto, ciao. Volete dire la vostra? 02 4652 4492. Chiamateci e parlate con la segreteria telefonica di 24 Mattino. 02 4652 4492. E ricordate, Alessandro Milan vi ascolta. 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 Mattino. L'Italia si desta. Che è venerdì, cari debosciati d'Italia, è venerdì. Ah, tra l'altro, annunciazione, devo fare un annuncio. Domenica alle 12.30 sarò con Leonardo Manera, con Luca Clobas, con Danilo Vizzini a Radio City Milano. Trovate su www.radiocitymilano.it, radiomilanocity.it. Ditemelo adesso, ve lo dico. Comunque alle 12.30 domenica la Fabbrica del Vapore a Milano, rifaremo Platone live. Saremo lì con Leonardo Manera. È gratis. È gratis. Ho detto che è gratis. Potete venire domenica alle 12.30, radiocitymilano.it è il sito dove trovate tutto. E allora vi aspettiamo, ci sono tantissime, tutte le radio italiane in diretta, per 3 giorni a partire da oggi, sabato, domenica, alle 12.30 in particolare, ci siamo noi. E potete vedere il programma in diretta, è gratis, ecco, va bene. Dai che è venerdì, allora oggi parleremo di che cosa? Avremo Antonio Verro, consigliere di amministrazione Rai, sì, colui che ha ammesso a metà di aver spedito quella lettera a Berlusconi quando era presidente del Consiglio. Comunque parleremo di riforma Rai, ma parleremo anche con una persona che non parla molto spesso. È colui dal quale la Camera da anni affitta i palazzi marini, l'immobiliarista Sergio Scarpellini sarà ai nostri microfoni. Gli abbiamo dato come Parlamento 444 milioni in credo 20 anni per l'affitto di uffici da parte della Camera. E ora si sta discutendo se rinnovare questi contratti. Sergio Scarpellini sarà con noi, immobiliarista, alle 8.15. Ora andiamo a leggere i giornali. In questo venerdì 13. È venerdì 13. Vabbè, ma come dico in queste occasioni, in queste ricorrenze, essere superstiziosi porta sfiga, quindi state all'occhio. Venerdì 13 marzo, le aperture, il Sole 24 Ore, lo spread BTP Bund torna ai livelli pre-crisi, questo è il titolo di apertura. Poi la scuola per il Corriere della Sera, la scuola più poteri ai presidi. Repubblica, la nuova scuola, prof scelti dai presidi, soldi a chi merita. Il Messaggero, premia i prof, decide il preside. La Stampa, ecco la nuova scuola di Renzi, è il disegno di legge, non più un decreto, ma un disegno di legge proposto ieri. E poi ancora Berlusconi, continua il processo almeno sui giornali, aveva ragione la Boccassini, questa è l'apertura del Fatto Quotidiano, mentre il giornale, il linciaggio continua. Queste alcune delle aperture, però voglio subito andare a leggere i giornali, in alcuni casi sono già vecchi, come la notizia dell'arresto di Cesare Battisti in Brasile, abbiamo sentito Daniele Biacchessi nel GR24, nella notte è già stato rilasciato, ma era stato arrestato in virtù di quella sentenza emessa da un giudice federale che qualche giorno fa aveva decretato l'espulsione di Cesare Battisti, accusato di 4 omicidi, 4 ergastoli da scontare in Italia. Si trova in Brasile, è stato arrestato temporaneamente, poi è stato rilasciato su ricorso del suo avvocato e quindi in questo momento non è più in carcere. Alcuni giornali come Repubblica titolano Cesare Battisti arrestato, rimarrà in carcere fino all'estradizione. Ecco, invece è già libero. Comunque trovate qualche dettaglio di questa vicenda, ovviamente superata dagli eventi della notte. Voglio però dare questo dato che è stato fornito dal Ministro della Salute Beatrice Lorenzin, che tra l'altro ha fatto un cenno anche alla sua situazione essendo in gravidanza. Il Ministro Lorenzin ha detto: attenzione, ogni anno sprechiamo in esami medici inutili 13 miliardi di euro. È una cifra incredibile, altro che una manovra finanziaria. E ecco perché ha citato il suo caso. Lorenzin ha detto: io per esempio incinta ho fatto finora 3 ecografie, le mie amiche alcune una ecografia ogni 10 giorni. Eccolo qui, Bruno Ruggero, pagina 12 del Giorno, il ministro e gli sprechi nella sanità, gettati 13 miliardi in esami inutili. Il ministro Lorenzin, in stato interessante, mamma mia ancora queste espressioni, in stato interessante, vabbè, si scaglia contro gli sprechi nel settore sanitario, una voce di bilancio che se razionalizzata disarmerebbe le mani di forbice che tagliano prestazioni e servizi ai cittadini. Per far quadrare i conti, costano all'Italia 13 miliardi di euro, altro che manovre finanziarie. Per questo il Ministero lavora protocolli stringenti per le direzioni generali, a partire dagli esami che si fanno in gravidanza. Si parla di ricoveri ingiustificati, anche sui giorni di degenza in ospedale a volte si tende a dilatare troppo i tempi. Certo, poi bisognerebbe aggiungere c'è la cosiddetta medicina preventiva, perché ormai i medici sono terrorizzati appena uno dice c'ho male al ginocchio, subito vado a fare delle lastre prima che un domani uno possa dire non mi ha prescritto l'esame e mi ha causato un guaio. È una questione molto molto annosa. Certo, questa cifra sbattuta in faccia fa molto scalpore, 13 miliardi di euro l'anno spesi, buttati via in esami inutili, ci faremmo delle belle manovre finanziarie con questi soldi. A proposito di soldi, c'è un eroe, quello che io ho definito per i giornali, lo cercano tutti, si chiama Gennaro Marotta, è un consigliere regionale in Veneto dell'Italia dei Valori che tende a ricandidarsi e dice: ho deciso, rinuncio al vitalizio, quando avrò 60 anni mi spetterebbero 500.000 euro maturati, ma io rinuncio a tutto questo. Immaginate come venga cercato da tutti, viene intervistato dal Fatto Quotidiano, Erminia Della Frattina, lui dice: guardi, sono sull'autobus e sto andando a fare la spesa. Ma lei davvero rinuncia a questo? Ma certo, rinuncio. Se io verso uno allo Stato e a 60 anni mi viene restituito 6 volte, c'è qualcosa che non va. Le proporzioni tra quanto ho lavorato in regione 5 anni e quanto percepirei in 20 anni di vitalizio, cioè 602.000 euro lordi, non sono giusti. Quello che percepiscono i politici è esagerato, soprattutto se confrontato con le pensioni ai cittadini. Ho parlato con mia moglie Fiorella, abbiamo una totale unità di vedute e non rinuncerò mai a questa, non tornerò mai indietro a questa decisione irrevocabile. Non voglio paracaduti, si può vivere dignitosamente coi soldi che guadagnerò, non dovessi essere rieletto da funzionario comunale a Venezia, 1420 per la verità euro al mese. Vabbè, se mantiene il punto Vincino, prima ai nostri microfoni ha detto non ci credo, finché non vedo non ci credo, siamo così diffidenti noi italiani, ma se manterrà il punto, chapeau, ecco, rinuncia a questi 500.000 euro netti perché dice sono troppi. Qui invece chapeau non lo dobbiamo fare, perché la vicenda che riguarda il sindaco di Agropoli in Campania è una di quelle vicende che fa tenere un po' le mani sul volante, certamente, anche perché riguarda una multa. Sapete cosa ha fatto il sindaco di Agropoli? Il sindaco di Agropoli è un sindaco di una città sopra i 5.000 abitanti e quindi non si poteva candidare alle regionali in Campania. E allora lui ha pensato: bene, ho trovato la soluzione. E ha fatto così, vi giuro, si è fatto multare apposta lasciando la macchina in divieto di sosta dai vigili del suo comune. Dopodiché non ha pagato la multa apposta, quindi è scattata l'incompatibilità tra una multa non pagata al proprio comune e la posizione di sindaco, per cui decadrà nei prossimi giorni. Decadendo può candidarsi alle regionali. E voi dite: ma perché non si è dimesso? No! Perché se si dimetteva arrivava il commissario prefettizio in comune. Così invece è decaduto, fa continuare la giunta comunale al suo vice sindaco, per cui, come dire, una persona affine a lui politicamente, e intanto lui si può candidare alle regionali. Furbo? No, sono stato intelligente, commenta lui. Sentite Massimo Gramellini, il buongiorno, nella prima pagina della Stampa. Franco Alfieri, sindaco di Agropoli, desidera candidarsi alle elezioni regionali campane, ma una legge locale impedisce ai sindaci di farlo, decretando in caso contrario il commissariamento del comune. Il sindaco non ha alcuna intenzione di cedere la poltrona a un funzionario statale, vuole tenerla in caldo per il vice, perciò lascia l'auto in sosta vietata, il vigile gli fa la multa, lui si rifiuta di pagarla. Così si realizza la fattispecie del decreto legislativo 188/2000 numero 267, in base al quale l'amministratore che apre un contenzioso col proprio ente decade e viene sostituito dal vice. Può darsi che la legge proibizionista disinnescata dalla furbata del sindaco di Agropoli sia una schifezza, ma è comunque una legge e come tale andrebbe rispettata. mentre il sindaco non solo se n'è infischiato della norma, si è vantato in pubblico di aver trovato un sistema per fregarla. Altrove questa operazione alla Totò gli sarebbe costata l'isolamento politico, il disprezzo degli elettori. Invece qui gli è valsa il plauso di maggioranza e opposizione e un balzo ulteriore nei sondaggi. Non saprei trovare aneddoto migliore per illustrare l'eterno insolubile caso italiano. A determinare il carattere di un paese non sono le regole, ma il consenso sociale che le circonda. E da noi quel consenso non sta certo con chi fa la legge, semmai con chi trova l'inganno. Eccolo qua, proprio fatta la legge, trovato l'inganno. Ditemi voi se non è questa da tenere le mani strette, strettissime, non in divieto di sosta sul volante. Sono cose che capitano. Ma che razza di atteggiamento è questo? Cose che capitano. Capitano soltanto perché questo paese è pieno di gente che quando queste cose capitano dice sono cose che capitano. Alessandro Milan, il panino came usa dell'informazione. Questa l'ha messa Pietro la Corte, da bravo siciliano. Ma tu lo mangi il panino camefs? Io l'ho mangiato una volta a Palermo, un po' mi fa impressione, no? Con la milza, no? La milza. Ma la milza di che poi? Di animale, sì, un bovino, vabbè, il pane che ha messo. Allora, la scuola, questo è il tema che è stato approvato ieri, va approvato, è un disegno di legge che andrà poi in Parlamento, anzi qui c'è il tema politico che affronteremo, non c'è più il decreto legge ma il disegno di legge sulla scuola. Scatti automatici, un po' di merito, dovete leggere Eugenio Bruno e Claudio Tucci sul Sole 24 Ore, pagina 3, per capire tutti i dettagli di questa riforma del governo Renzi. Il punto principale, dal 1 settembre l'assunzione, la stabilizzazione di 100.701 docenti precari fino a questo momento. Si è confermato anche il mantenimento degli aumenti automatici di stipendio, cioè gli scatti di anzianità rimangono. La novità è che verrà istituito con un fondo per introdurre, ma solo dal 2016, un pochino di merito per premiare i migliori professori. I soldi per questa finalità sono 200 milioni e saranno i presidi, sentito il consiglio d'istituto, ad assegnare le somme incentivanti ai docenti del proprio istituto. E quindi vabbè, subito mi è arrivato un messaggio, l'SMS provocatorio: partiranno le tangenti ai presidi. Noi adesso dobbiamo sempre vederla all'italiana, no? Come se c'è trovata la legge, fatta la legge, trovato l'inganno, visto il sindaco di Agropoli di cui raccontavamo prima. Però più ruolo ai presidi proprio su queste somme incentivanti. Racconta sempre il Sole 24 Ore: il pacchetto di oltre 100.000 immissioni di ruolo di precari dal 1 settembre è composto da circa 98.000 docenti iscritti nelle graduatorie esaurimento. I restanti 2.000 arriveranno invece dai vincitori dell'ultimo concorso Profumo del 2012. Si conferma per il momento l'esclusione dall'assunzione dei candidati idonei ma non vincitori. Con questa operazione le graduatorie esaurimento si svuoteranno quasi interamente. Resteranno in quelle liste 23.000 maestri di scuola materna. Per loro l'immissione in ruolo è solo rinviata, ha spiegato Renzi, e sarà legata al riordino dei servizi educativi per i bambini da 0 a 6 anni da fare assieme ai comuni e utilizzando una delle 14 deleghe previste dal disegno di legge. Ci sono, ripeto, tutti i dettagli, li trovate sul Sole 24 Ore a pagina 3. C'è l'aspetto politico. L'aspetto politico è questo: si è proceduto appunto con un disegno di legge, non con un decreto. Questo, come sapete, ha fatto arrabbiare il ministro dell'istruzione Stefania Giannini e secondo il Secolo XIX è lei ora diventata più precaria dei precari. Si parla spesso di rimpasto. Ed eccolo qui Ilario Lombardo, pagina 2 del Secolo XIX, la capriola legislativa del Premier sulla riforma della scuola, cioè da un decreto a un disegno di legge, è stata fatta all'insaputa del ministro Giannini. E quindi Giannini ne ha preso atto, stupita, arrabbiata, ma costretta a inghiottire gli ordini del Presidente del Consiglio. Ieri Renzi ha incontrato Zanetti, che è sottosegretario all'economia, ma anche il numero uno di Scelta Civica, il partito con cui Stefania Giannini è andata al governo. Ora Stefania Giannini è passata al PD e allora ecco che Scelta Civica reclama un posto al governo. questione di politica interna. In realtà Renzi vorrebbe sostituire Stefania Giannini, secondo questo articolo del Secolo XIX, ma ha pronte due sostituzioni interne: o Anna Ascani, 28 anni, deputata in ascesa del Partito Democratico e presenza fissa nei talk show del PD, oppure Francesca Puglisi, che è la responsabile scuola del Partito Democratico. Una di queste due potrebbe sostituire Stefania Giannini. Per carità, tutte chiacchiere di politica, ma il segno è che qualche tensione c'è. Tensione c'è stata soprattutto ieri con gli studenti che hanno contestato questa riforma. Ci sono le immagini, alcune sul mio profilo Twitter Alino Milan, le ho pubblicate con le foto della vernice rossa contro i poliziotti, tutti imbrattati nelle loro divise di vernice rossa. C'è anche una foto che circola, l'ho messa sempre su Twitter, incredibile, il giornale la mette a pagina 10, che ricorda il G8, ricorda Carlo Giuliani, ancora una volta un estintore lanciato da una persona tutta incappucciata nei confronti di un cellulare della polizia che passava, una camionetta della polizia. Si vede proprio l'estintore buttato da dietro verso il finestrino. Poi succedono le tragedie. Vabbè, fortunatamente non è successo nulla in questo caso. Ieri in Consiglio dei Ministri si è parlato anche di Rai, di riforma della Rai. Avremo ospite Antonio Verro, uno dei consiglieri di amministrazione Rai, alle 8:40. Si è parlato di Rai, interessante tra l'altro il punto di vista di Aldo Grasso, che fa un editoriale in prima pagina sul Corriere della Sera, la cui posizione è questa: per risolvere alla radice i problemi della Rai bisognerebbe privatizzarla e smetterla con le lagne della più grande azienda culturale del paese, della missione di informare, divertire, educare. È finita quell'epoca, scrive Aldo Grasso, è pura nostalgia. Questa provocazione ha solo lo scopo di rammentare in quale palude politica, legislativa e editoriale si trovi Viale Mazzini, e non da ora. Perciò va riconosciuto al governo Renzi di aver ieri avviato l'esame Rai, di aver trovato il coraggio di voler mettere mano a una materia che scotta. È un'azienda che giorno dopo giorno sta perdendo fisionomia, capacità realizzativa, funzione sociale. Da tempo la RAI è solo bottino di guerra dei partiti e la sua capacità di incidere sull'identità nazionale è quasi del tutto svanita, e spiace dirlo, programmi interessanti se ne vedono sempre meno. Questo è il punto di vista di partenza di Aldo Grasso. Reti tematiche, una senza spot, lo svincolo dall'audience, e cioè questa è l'idea di Renzi: una RAI che non debba il giorno dopo alle 10 del mattino, quando escono i risultati dei programmi, di quanto sono stati seguiti, non debba inseguire questa angoscia semplicemente dell'audience. E poi come sarà la RAI, il direttore generale che deve essere nominato direttamente dal governo, il consiglio di amministrazione nominato dai partiti. Beh, queste sono cose che interessano molto poco ai cittadini, molto meno, sono cose di politica. La domanda è: la politica uscirà dalla RAI, sì o no? E la risposta, come vi ho detto sempre, è no. Quindi questa sarebbe la vera rivoluzione. Ci sono interviste a Pippo Baudo, intervistato da Repubblica, c'è un'intervista a Renzo Arbore, che guardate, lo certifica sul Fatto Quotidiano, Renzo Arbore: la RAI non può essere privata, così Renzo Arbore, pagina 7 del Fatto Quotidiano, e se è pubblica qualcuno deve tenerne il controllo, ma ritenere che solo perché pubblica debba essere affidata degli incapaci è un vero sopruso della nostra intelligenza. Io vorrei che tornasse Biagio Agnes, il grande biagione democristiano, così Renzo Arbore, intervistato da Antonello Caporale sul Fatto Quotidiano. Vabbè, la RAI, torna la questione della RAI. A proposito di governo, c'è un piccolo problemuccio per un sottosegretario del governo Renzi, il sottosegretario Castiglione, che è sotto accusa, perché quando era sindaco di Mineo in Sicilia, dove c'è un centro di identificazione e di espulsione per gli immigrati, appalti e rifugiati in Sicilia, indagato il sottosegretario del nuovo centrodestra, sotto inchiesta per il centro di Mineo. Così Marco Lillo sul Fatto Quotidiano, ma trovate ovunque, Mafia Capitale, Cosa Nostra, dietro il business degli immigrati, l'indagine nei confronti del sottosegretario Castiglione. Questo raccontano i giornali. Come, attenzione, raccontano che ieri in Consiglio dei Ministri si è approvata un'altra norma importante. Il Messaggero, pagina 7. Per i piccoli reati niente più processo. Il pensionato che non ce la fa arrivare a fine mese con malcelato imbarazzo fa scivolare nella tasca del cappotto un pezzo di parmigiano al supermercato. O l'impiegato comunale che usa il telefono di servizio per un paio di chiamate personali. Nel primo caso sarebbe furto, nel secondo peculato. Non ci sarà più i processi. È stata approvata la cosiddetta tenuità del fatto. Cioè, se il fatto è considerato non grave, non ripetuto e per reati di scarso allarme sociale, che ne so, vi rubano una bicicletta, io l'ho trovata con una ruota in meno, così nel cortile di casa, sono sceso, c'era una ruota davanti, non c'era più. A parte, potete immaginare gli auguri che ho lanciato a colui che mi ha rubato una ruota, però non posso fare niente, al limite rivalerti in sede civile, ma non è più un reato, è un reato tenue, è un reato, c'è la tenuità del fatto. Cioè, posso incontrare Mauro Meazza al bar e dargli uno schiaffone, ma questo no, Mauro, no, questo, no, questo è un reato grave, rimane grave. Ya, caro Alessandro, scusa, sto prendendo lezioni di tedesco. Sì, infatti, sarà il caso. Impara sì, velocemente, no, in una settimana. Vediamo se ci riusciamo, stiamo facendo un corso accelerato. Volevo dirti, leggi, indovina in quali pagine. Norme tributi. Ma bravissimo, leggi Giovanni Nenni, perché oggi sul Sole 24 Ore, proprio sulla tenuità del fatto, mi compiaccio di questa tua preparazione e di questa tua proprietà di linguaggio. Ti spieghiamo puntualmente in cosa si traduce questa, cioè, uno schiaffone a Mauro Meazza, cos'è? No, quello... a me sembra abbastanza grave, insomma, bisogna vedere, tre ceffoni, un passaggio, un retropassaggio sbagliato, vabbè, esatto, tre ceffoni a Meazza, tre ceffoni a... vabbè. Rimane, secondo me è un reato non tenue, vabbè, non tenue, meno male, ecco, che c'è sempre l'Inter, sempre sul Sole 24 Ore di oggi, oltre alla tenuità del fatto, ti annunciamo anche che oggi è un giorno decisivo. Ovvio. Aboliscono le province. Decisivo. Che giorno è oggi a proposito? Aboliscono le province. No. Adesso vediamo, su questo ci stiamo lavorando. No, è un giorno decisivo per la voluntary disclosure o rientro dei capitali, perché oggi attendiamo, e lo scriviamo oggi sul Sole 24 Ore, la circolare. È una circolare molto attesa, nel senso che ci sono le istruzioni dell'Agenzia delle Entrate per completare, diciamo, tutto il quadro operativo della voluntary disclosure, e così anche i tuoi due eurini potranno tornare a casa. Poi non vorrei che tu mi stessi sottovalutando la riforma delle popolari. No. Perché mi sembra. No, ti ho visto distratto. Guarda, che su Finanza, sulle pagine di Finanza invece ne parliamo, ed è importante, tra le altre cose, c'è scritto qua e là, ci sono anche le nuove previsioni per il poter cambiare il conto corrente, ma ci sono molte cosucce che ti inviterei a leggere con attenzione. Così come scoprirai, sfogliando il Sole 24 Ore, che si andrà a votare in 7 regioni. E in un migliaio e poco più di comuni il 31. Lo sapevo. Che quindi sarà un giorno, dillo tu stesso, Abbastanza decisivo. No, vabbè, senti, voglio chiudere con due cose, una positiva, l'altra non so. Quella che non so è il fatto che il Consiglio di Stato ha detto che non si può mica chiudere gli uffici postali dei piccoli centri così. Questo leggi tutti i particolari, norme e tributi. La buona notizia è che c'è il reshoring, cioè ci sono delle aziende che erano andate all'estero a produrre e tornano in Italia. Reshoring, non c'era la parola italiana, non so come il rientro delle produzioni si potrebbe dire. Una voluntary disclosure. Tornem in re. Alessandro Milan, tartaruga ninja in informazione. Ride, va bene, caro bimbo. Allora, vi ricordo, se venite domenica a Radio City Milano, Radio Milano City, non me lo ricordo, ma radiocitymilano.it, trovate tutti i dettagli. Adesso Filippo Solibello di Radio 2 mi ammazzerà appena mi vede. Comunque c'è una 3 giorni a partire da oggi di tutte le radio italiane alla Fabbrica del Vapore a Milano, e noi, io, Leonardo Manera, alle 12.30 di domenica faremo Platone live, eh? Venite tutti che, come ho detto prima, è gratis. Vabbè, torna la vicenda, torna. Da 20 anni che c'è la vicenda giudiziaria di Berlusconi, ancora non è finita con l'assoluzione. Guardate, i giornali che titolano, aprono, continuano i processi mediatici e anche nelle aule, il Rubiter. Aveva ragione la Boccassini, il Fatto Quotidiano, pagina 2 e 3. Oppure il giornale, continua il massacro mediatico, come ho twittato io questa mattina, ero un po' arrabbiato, un po' adombrato, ho detto siamo da 20 anni un paese che si divide, ossessionato dai tifosi pro e contro Berlusconi, un paese di M, prima l'ho definito così, per questa cosa, ma so che molti di voi siete molto meglio di questa rappresentazione schifosa del paese. Comunque c'è l'aspetto politico anche di Berlusconi, che tra l'altro incassa, credo suo malgrado, il gelo dei vescovi, perché dopo la soluzione rimane comunque il giudizio morale, dice Monsignor Galantino, cioè il giudizio morale su quelle cene eleganti, quelle per le quali l'avvocato di Berlusconi ha detto se la vedrà in confessionale. C'è poi la questione politica, nel senso che Verdini ieri ha avuto un faccia a faccia con Berlusconi, racconta Repubblica in una retroscena a pagina 6 che Verdini avrebbe detto a Berlusconi: Maria Rosaria Rossi pensa di prendermi per il culo, e neanche ti parlo di Toti e di Deborah Bergamini perché non spreco il mio tempo, io te lo dico una sola volta, o noi o loro. E qui si parla ancora una volta di ipotesi di scissione, ma così sono tutte schermaglie, sono tutti riposizionamenti. Domani, per esempio, Flavio Tosi pare scioglierà definitivamente la sua riserva sulla candidatura, si candiderà alla regione Veneto, così pare, domani Flavio Tosi. Staremo a vedere. La cronaca, vi voglio segnalare una bella lettera che è comparsa in prima pagina di Libero, sempre che la trovi, vabbè, comunque una lettera nella quale, eccolo qui, un signore di 87 anni, Luigi Buzio, scrive dicendo: spettabile Libero, mi chiamo Luigi Buzio, ex farmacista a Milano, in piazza Duomo, in piazza Baiamonti, via Manzoni, via Canonica, ho sempre abitato in viale Zara. Ho 87 anni ma sono autosufficiente e mi trovo malissimo in casa di riposo. Con la mia compagna, che è poetessa, ha 63 anni, cerchiamo disperatamente una famiglia buona e mite, come lo siamo noi, che ci accolga come uno di famiglia. E verseremo loro naturalmente la retta che paghiamo qui, cioè 1.600 euro al mese. A Milano ero conosciutissimo, mi sono laureata a 23 anni, ho esercitato la professione per più di 50 anni, comprese le supplenze. E poi alla fine mettete pure il mio indirizzo. Casa di riposo ospedale Santa Croce, via Ernesto Panza 220, San Salvatore Monferrato, Alessandria. Insomma, in casa di riposo sto male, cerco una famiglia che mi adotti, vorrei essere un po' più felice rispetto a qui. È una lettera pubblicata da Libero in prima pagina e poi continua a pagina 17. Che dire? Beh, c'è il mistero di Putin. Sapete che Putin è sparito? Da 7 giorni, non si fa vedere. Circola anche in rete l'hashtag su Twitter Putin dead Putin, oppure si parla di colpo di Stato. C'è un giornalista abbastanza conosciuto, Ivan Davidov, che racconta a Repubblica: ho parlato al telefono con i miei amici al Cremlino e sono tutti strani, mi sembravano ubriachi. Cioè, c'è il mistero su Putin, si parla di colpi di Stato, si parla di il mistero di Putin. Da 7 giorni è scomparso, il Cremlino dice sta bene, uno degli ultimi che l'ha visto è Matteo Renzi, proprio in un'occasione pubblica. Da allora è praticamente scomparso. Vabbè, staremo a vedere. Intanto sapete che Keynes, l'economista Keynes, John Maynard Keynes, era un trombatore folle, così pare. Repubblica titola così: niente economia a letto. fa una pagina sulle conquiste che lui appuntava tutte precise, tipo raccontava di quella giornata con ragazzo dell'ascensore, oppure granduca ai bagni di Parigi, soldato ai bagni pubblici, orge con giovani pantere, così tutto. Keynes. Vabbè, ma siamo al momento della carta costa, l'articolo più inutile scovato sui giornali, una pagina del giornale, una intera sull'Air Force One che va in pensione, l'aereo del presidente americano in pensione, col contributivo o col retributivo, chi lo sa. Ma chi se ne frega! Mattino. Eccoci alle 8:18 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan, cari ascoltatori. Allora, dovete sapere, cari ascoltatori, che all'interno di Palazzo Montecitorio, all'interno della Camera, ma anche del Senato, non ci stanno tutti i parlamentari. E quindi dal 1997 il Parlamento ha stipulato dei contratti di affitto per dare degli uffici a tutti i deputati e senatori anche fuori dalla Camera. Sono i cosiddetti palazzi marini, sono 1, 2, 3, poi 4 palazzi. E a chi paghiamo? Paghiamo perché insomma la Camera siamo un po' tutti noi, il Parlamento, la Camera e il Senato siamo tutti noi. A chi paghiamo questi soldi? Li paghiamo a un'agenzia, a una società immobiliare, dell'immobiliarista Sergio Scarpellini, si chiama Milano 90. E in questi anni abbiamo dato, secondo stime, 444 milioni a Sergio Scarpellini, che è definito da alcuni, non so se è contento o no, l'immobiliarista della casta. So che parla raramente e quindi è qui con noi, di questo lo ringrazio. Scarpellini, buongiorno e benvenuto a Radio 24. È contento di essere definito l'immobiliarista della casta? Bastardo, qui si parla solamente di chiacchiere, perché mi piacerebbe fare un confronto con i numeri alla mano, assieme a gente competente, non degli incapaci, che parlano spesso per parlare. Perché? Allora, tenga presente. Allora, io ieri sera mi sono fatto un po' cacco. Noi togliamo il 40% di tasse. Sì. Giusto? Togliamo tutte le spese del personale che noi, circa, noi si paga del personale, circa qui, servizi personale, calcoli che paghiamo 11 milioni l'anno per il personale. Sì. Questo. Togliamoci l'IVA sopra, altri 10 milioni di IVA, giusto? Vabbè, ma io mica ho detto i soldi che ha guadagnato lei, i soldi che ha speso la Camera, no? Poi dopo lei c'era... soldi che, ma guardi, la Camera credo che abbia fatto il più grande affare della sua vita. Addirittura. Questo glielo posso dire io, quei numeri alla mano. Ma qualcuno dice che comprarli quei palazzi sarebbe costato molto meno che affittarli per tutti questi anni. Ma ognuno ha la sua. Io guardi, quando ho fatto l'operazione della Camera, pensavano perché si arriva e si chiudeva l'operazione, se no non l'avrei mai fatta. Perché poi tenga presente tutti gli interessi che io ho pagato alle banche, tanto per dire l'età, io sono in crisi, lo sappiate benissimo, sono in crisi perché in tutti questi anni non ho mai guadagnato. Scusi, come in crisi? Allora lei chiaramente ha pagato l'IVA, le tasse eccetera, ma di questi 444 milioni quanti sono rimasti a lei come società? Facciamo questo calcolo qui così a braccio, no? Sì. Se facciamo 11 milioni l'anno di stipendi, calcoli per quanti anni gli stipendi, lei vede come è ridotto. Poi calcoli l'IVA, 10 milioni l'anno di IVA, sì. Poi calcoli le tasse, ma proprio i numeri alla mano, mi piacerebbe fare un confronto, poi se una radio molto seria, mi piacerebbe fare un confronto, ma di fronte alla Camera attuale con la gente... quelli che non che si parla, qui si parla solamente di chiacchiere. Sì, di chiacchiere. Insomma, lei dice non ci ha guadagnato granché. No, proprio io ho rimesso, non è che voglio fare... Ci ha rimesso addirittura. Io mi sono salvato solamente perché, vi dico chiaramente, che c'è stata una rivalutazione immobiliare, se no l'ha rimesso piacere. Io, quando ho fatto l'operazione, io l'ho fatta prettamente perché la Camera doveva aprire e chiudere. Calcoli io per questa operazione avrò speso per rimettere i palazzi a posto. Sì. Circa 150 milioni. Però mi scusi, Scarpellini. Allora, tra l'altro la sento un po' male, forse non so se a viva voce, le chiedo magari di stare un po' più vicino al telefono. Sì, adesso la sento un po' meglio. Le faccio sentire cosa dice il direttore dell'Agenzia del Demanio, Roberto Reggi. Dice praticamente che lei chiede un prezzo d'affitto che è il doppio di quello del prezzo di mercato. Senta Reggi, I dati economici raccolti hanno condotto a un valore massimamente frequente che si attesta attorno ai 36 euro al metro quadro mese. Scarpellini chiede il doppio. Allora, lui chiede un canone di 5.376.925,12 euro all'anno, mentre quello che noi abbiamo congruito è 3.012.000 euro. Vabbè, qua ci perdiamo un po' con le cifre, però al microfono di Alessandro Longoni dice il direttore dell'Agenzia del Demanio che lei chiede il doppio del prezzo di mercato, Scarpelli. Questo credo che sia una cosa esatta, perché io sto affittando altri materiali a Roma, i prezzi sono quelli che ho chiesto io. Questo tanto per dire, lei deve sapere, e questo dare atto, noi abbiamo un problema del personale, a me se no mi converrebbe vendere, perché ci abbiamo delle richieste enormi, però ci abbiamo sopra circa 400 persone, perché che vanno a casa dopo 20 anni circa che lavorano con me, e hanno 420 bambini. E questo, però devo dare atto che in questo momento la Camera questo problema lo sente. Esatto, la Camera sente questo problema, cioè perché i contratti volevano essere tutti sciolti, rescissi. In realtà adesso la Camera ha detto no, forse un palazzo, per quanti palazzi si sta discutendo se rinnovare il contratto? Uno, due, quanti? Due palazzi. Perché lei ha detto io ho dei dipendenti, quanti sono? 500? 473. E li lascio a casa se non ho. Però, scusi, guardi, ci conviene forse assumerli tutti alla Camera e spendiamo meno. Magari, veramente sarei soddisfattissimo io. Vabbè, ma lei sta dicendo, allora lei tra l'altro non affitta solo al Parlamento, mi pare, al TAR, al Comune di Roma, al Quirinale anche. Cioè, nel senso, sta dicendo che non ci guadagna niente, ma chi glielo fa fare? Ma guardi, tante volte quante cose fa, lei è giovane, quante cose fa nella vita, lo fa perché è questa situazione. Lei, quando io sono partito su questa iniziativa, perché motivo? Sono partito perché pensavo che la Camera comprasse, un'operazione aperta e chiusa, invece la Camera ha comprato, e a me mi sono rimasto in piedi tutto il personale, mantenere tutto il personale. Cioè proprio lei il sogno è liberarsi di questi palazzi, e che la Camera li comprasse, sarebbe stato meraviglioso. Io faccio un'operazione, faccio l'imprenditore, apro e chiudo, e via. Sa che mi hanno finanziato e chiudiamo. Perché lei ha detto in un'intervista: io ho iniziato a fare il fornaretto, e poi ho iniziato a comprare edifici e affittare, comprare, affittare. Però vorrebbe comprare e vendere in realtà questa. Esatto, sì, perché i tempi sono cambiati, il mercato è quello che è, lo sa perfettamente. Senta, no, ma in un'altra intervista lei ha detto chi dice cazzate lo ammazzerei. Con chi ce l'aveva? Con qualche politico? Lei, i suoi colleghi. Colleghi. Che scrivono, no? Perché chiedo un confronto? Facciamo un bel confronto dove si può vedere i numeri alla mano. I numeri sono gente capace e competente, non solamente chiacchiere. Questo è il concetto. Allora guardi, le chiedo questo, non so se ha visto, noi l'avremo ospite lunedì, Mario Giordano lo conoscerà certamente, direttore del TG4, ha scritto questo libro Pesce Cani. In questo libro a pagina 116 cita anche lei e dice: per anni mi sono chiesto perché si dovessero affittare da Sergio Scarpellini dei palazzi da parte del Parlamento, prima un edificio, poi due, tre, quattro. Lei si sente un po' un pesce cane, insomma, uno che... Sì, perché qui in questo paese chi gente gli piace lavorare viene danneggiato, no? Ora le spiego, io quando ho iniziato questo rapporto con la Camera, io avevo il Marini 1, così per dire, che la Camera ce l'ha chiesto, poi quando abbiamo cominciato i lavori, a fare i lavori, la Camera ci ha chiesto, Scarpellini, ci servono altri spazi, e abbiamo avuto la fortuna da comprare gli altri attaccati, come è successo. È così, io faccio l'imprenditore, che vedo l'operazione, giusto? E abbiamo fatto questa cittadina, che è una cosa interessante, e man mano è partita questa iniziativa. A me, io non capisco tutto questo attacco che mi fanno, è una cosa indegna. Ma no, ma attacco, cioè la gente si chiede, per esempio se lo chiedeva Sergio Rizzo, non è che abbiamo speso per tanti anni come Camera molto più di quello che è il prezzo di mercato? Lei mi ha fatto un nome, mi fa... disgustare, mi faccio un confronto con Sergio Rizzo, con i numeri alla mano, con lui che sta a fare questo mestiere, con i numeri alla mano, così facciamo finire una volta tanto. Con i numeri alla mano, vabbè, e organizzeremo un confronto con Sergio Rizzo. Però guardi, anche il Movimento 5 Stelle aveva chiesto di rescindere tutti i contratti. Ma magari sì, l'ha fatto perché ha tolto i contratti quattro anni prima della scadenza, creandomi un danno non indifferente, un danno no perché io i soldi vanno a finire in mano alle banche, giusto? Lei pensi che a questo punto come mi trovo io? è giusto? No. Se non ci fosse stato il personale, io vendevo, uscivo fuori, chiudo la partita. Questo è il concetto. Ho capito, ma lei lo sta dicendo come se lo faccia per non lo so, per un'opera caritatevole nei confronti della Camera. Ma non è che un'opera caritatevole, era un lavoro questo. Allora, gli intervino, io l'ho fatto. È un lavoro. Perché... per esempio, nel 2010, mi confermi questa cifra se è sbagliata, Rita Bernardini, dei Radicali, ha calcolato che il 35% di spese della Camera per forniture e consulenze andava alla sua società. Ma non è che andava alla società, perché io parlo di conto della mia azienda, io so che la mia azienda, non parlo del bilancio della Camera, io parlo della mia azienda. Io le posso garantire, se chiedo un confronto, io anche a Rita Bernardini l'ho chiesto, facciamo un confronto davanti alla gente, non chiacchiere, davanti alla gente con i numeri alla mano. Lei dice sempre il confronto, ma quindi questi numeri sono tutti falsi? Tutti falsi, quelli che dicono tutti falsi. Tutti falsi. Però scusi, mi dica allora se è vero, sempre Mario Giordano cita che lei ha due Ferrari, è vero? Due Ferrari che sono 90 anni ci hanno. Vabbè, spero che valgano, sono delle Ferrari, sono l'eccellenza mondiale, valgono... Sono 20 anni, uno c'ha 21 anni e uno c'ha 19 anni. Allora, come la mettiamo? Quasi 80 anni, ma si può permettere di avere due macchine? No, ma vuol dire se ha due Ferrari, guardi, qua l'ultima cosa che facciamo è demonizzare la ricchezza, eccetera. Però vuol dire che qualche soldo l'ha fatto, non è vero che è stato tutto una operazione in perdita, voglio dire, la sua carriera? Ma per carità, se no cambiamo mestiere. Siccome lei ci sta dicendo che ci ha rimesso. Non è che i soldi l'ho fatti per l'operazione della Camera. Ha capito? Perché io tenga che ho quasi 80 anni, che pensa? Comincio da 12 anni, che pensa? Come le ha fatte allora? Qualche soldo l'ho fatto, perché lavorando. È vero che la Guardia di Finanza le ha requisito 10 milioni di beni per mancati pagamenti dell'IVA contestati? Sì, perché è proprio per questo, bravo. Questo perché? Perché la società sta soffrendo, mancano per mantenere il personale, certamente, non c'è liquidità. È questo. È come se tutti questi soldi che voi dite, Cioè, ma lei l'ha pagata quell'IVA o no? Sì, ce l'ho pagata. L'ha pagata. E perché gli hanno sequestrato? Gli hanno sequestrato perché la devo pagarla. No, ho capito. No, gli hanno sequestrata contestando il fatto che lei non l'abbia versata questa IVA. Che cosa prese? No, l'IVA, il mio fiscalista, quando c'era questa cartella del 2011, mi ha consigliato, forse consigliato male, senza me, dice guarda, scappellini, perché in caso di liquidità ho pagato quello del 2012, poi lui mi ha detto facciamo un versamento di 1,5 milioni, giusto? E poi arriverà la cartella e faremo una realizzazione di questa cosa. Sì. Invece è arrivata la Guardia di Finanza, ha fatto questo, ha trasmesso, a me mi dicono tanto non potevano farla, però è mai fatta. Mai io l'ho coperto proprio l'ultimo versamento che ho fatto ieri. E tenga presente, mi dovrei ritornare. Però raccontano questa, non so se è una leggenda, un giorno l'ho letto sul giornale, sul Corriere della Sera, credo, che lei, andando a trattare alla Camera, si è presentato con due telefonini contemporaneamente, fingendo, scriveva il giornalista, di parlare. Aspetta, fingendo di parlare con arabi e russi che stavano per comprare i palazzi. È una leggenda. Questa persona non so chi sia, però è completamente un cretino, un incapace, è inutile. Ma come fanno? Questo dov'è? È una leggenda, io glielo chiedo perché l'ho letta sui giornali. Evito sempre queste cose perché molti suoi colleghi scrivono un sacco di stronzate. Vabbè, lei qua, non so, vuole lunedì per esempio avrò Mario Giordano, vuole tornare ai nostri microfoni e parlare con lui. Lei quando mi dici sono pronto sempre. Magari è importante che voi diciate la verità. Allora lunedì magari la richiamo. Intanto le chiedo questo per concludere: è vero che lei ha detto io ho pagato, nel senso ho finanziato diversi partiti negli anni, destra, sinistra, centro, non è che ho finanziato, quelle piccole cose che la legge ce lo permette da dare. Sì, certo, tutto legale, questo è chiaro. Poi, cioè, chi ha dato un po' a tutti, sia Berlusconi, sia... No, un po' i partiti, qualche partito, ma non è che poi sono state cifre. Quanto ha dato di cifre in tutto? Non lo so, però non è state cifre importanti. Ma perché si fanno queste cose? Perché poi uno magari ha dei tornaconti, no? Lo Stato fa queste cose, esce queste leggi e noi le facciamo. scusa, se il governo fa qualche cosa per noi, noi che cosa dobbiamo fare per il governo? Va bene, allora Scarpellini, io intanto la ringrazio. Se lunedì vuole, sempre a quest'ora, avremo Mario Giordano, sarà ancora ai nostri microfoni. Così le segnalo il libro di Mario Giordano, Pesce Cani, lo trova, parla di lei a pagina 116, se vuole. Se ci sono verità, io gli dico che sono bravo. Se ci sono stupidaggini, ve lo dico. Eh beh, certo, lei dice quello che pensa, mica qua siamo in diretta. Può dire quello pesce che vuole. Pesce cani. Va bene. Scarpellini, intanto la ringrazio. Un confronto con la verità. Ho capito, ma la verità non è che possiamo fare un confronto con i bilanci, è poco radiofonico, però lei ci dice quello che pensa e ci dice che per esempio ci ha rimesso da tutta questa operazione. Intanto Scarpellini, la ringrazio, io la stimo solo per una cosa sicuramente indiscutibile, ho letto che lei si sveglia alle 5 come me, e quindi guardi, per questo mi sta simpatico, va bene, la ringrazio. Buona giornata ovviamente, Sergio Scarpellini, titolare della Milano 90, imprenditore immobiliarista, è colui che affittato per anni, adesso si sta discutendo se affittare ancora i palazzi Marini 1, 2, 3, 4 da parte di Camera e Senato, che ci ha detto, avete sentito, ci ho rimesso da tutta questa operazione. Va bene, comunque vedremo se lunedì rivuole, è qua insieme a Mario Giordano che, come ho detto, ha scritto questo libro e sarà lunedì ai nostri microfoni. Noi andiamo in pubblicità, poi avremo Antonio Verro, uno dei membri del CDA della RAI, parliamo un po' di RAI. 24 mattino. Allora, le 8:38 minuti, poi se lunedì riprenderemo questa vicenda con Sergio Scarpellini e con Mario Giordano. Intanto ieri si è parlato in Consiglio dei Ministri di riforma RAI, sarà un disegno di legge, non un decreto. Oggi scrive Aldo Grasso, in prima pagina del Corriere della Sera, per risolvere alla radice i problemi della RAI bisognerebbe privatizzarla e smetterla con le lagne della più grande azienda culturale del paese. La missione di informare, divertire, educare è pura nostalgia, è finita quell'epoca. Voglio subito girare questo commento di Aldo Grasso ad Antonio Verro, che è consigliere di amministrazione RAI. Buongiorno Verro, ben ritrovato. Sì, grazie, buongiorno. Che a lei, ne pensa di questa posizione? Ma io, guardi, in epoca non sospetta, l'ho detto già parecchie volte, l'ho detto anche in commissione parlamentare di vigilanza, credo un paio d'anni fa, io sono contrario alla privatizzazione della RAI, perché la funzione da servizio pubblico di un'azienda importante come la RAI io credo che sia fondamentale e insostituibile. Quindi non è una lagna questa della... Ma è così in quasi tutta Europa, quindi credo che ci siano delle serie e motivate ragioni sociali, politiche e culturali perché continui a essere così. Certo è che adesso vediamo come viene fuori la riforma della RAI, sì. Ecco, diciamo che va governata, è una materia che va governata con cautela, sì, e con cura. Sì, ma poi i cittadini, scusi, non pensa Verro che i cittadini vogliono solo una cosa da capire dalla riforma della RAI, che è questa: la RAI non sarà più sotto il controllo della politica con la riforma, oppure sarà ancora sotto il controllo della politica? Poi chi nomina il direttore generale nominato così, cos'ha, cos'u? Apriamo un dibattito, cosa vuol dire sotto il controllo della politica? Io adesso dirò una cosa che probabilmente, anzi certamente, non è popolare. Io sono un nostalgico, sono molto innamorato e affezionato alla democrazia rappresentativa, sì. Che è un meccanismo che sicuramente ha mille difetti, ma io personalmente non ne conosco uno migliore. Non sono solo io, credo che quasi tutto in tutto il mondo civile non ce n'è uno migliore. Perché è esattamente il modo, ma non quello di dare, come dire, forza e potere ai partiti e al Parlamento e alla politica in generale, ma quello di rappresentare nel luogo deputato a fare le leggi blocchi sociali che hanno tutta una serie di interessi e di orientamenti politici e culturali che vanno coltivati. Questo è la politica. Quindi voglio dire, la pensa un po' come Renzo Arbore oggi sul Fatto Quotidiano, dice la RAI non può essere privata, la RAI è politica, la RAI... Allora, il problema di fondo è saper scegliere, la politica deve assumersi la responsabilità di scegliere della gente brava, seria, preparata, sì, e che abbia il senso dell'istituzione, tutto sommato, e quindi, come dire, eviti di scadere e di decadere nella lottizzazione. Una volta fatto questo, è chiaro che il concetto della privatizzazione è un concetto che secondo me non sta nel cielo. Non sta nel cielo né terra, però voglio dire, come si fa se c'è la politica a non lottizzare? Voglio dire, la politica naturalmente occupa spazi, voglio dire, è la sua natura, quindi... Sì, occupa spazi per far che, ripeto, se occupa spazi per lottizzare e per sistemare gli amici degli amici, certo è sbagliato, è criticabile e va, come dire, va denunciato. Vabbè, l'idea... Se invece occupa spazi per garantire pluralismo, che attenzione, pluralismo non significa soltanto favorire il partito A e il partito B, sì, ma pluralismo vuol dire garantire tutte le sfumature, le spaccettature culturali, sociali, sì, sì, sì, che, sì, ci sono, che ci sono nel paese. Secondo me questo deve fare la politica e questo fare la politica aziendale dentro la che ne pensa del direttore generale scelto dal governo nella futura riforma RAI? Cioè un direttore generale che sia un manager che paghi poi con la propria responsabilità se sbaglia? Guardi, allora è un discorso che mi lascia un po' perplesso, nel senso che come le dicevo prima, io sono fortemente innamorato dell'idea di una RAI parlamentarizzata, che è quello che dice la legge, diciamo, prima ancora da Gasparri, insomma, sì, diceva sì, questo, sì. E le sentenze della Corte, la giurisprudenza costante hanno confermato questa linea. Quindi sono su questa linea. Il problema di fondo non è tanto o non è solo chi nomina. Io, se devo essere sincero, ero molto preoccupato da quello che avevo letto ieri sui giornali, che evidentemente davano un'idea sbagliata. Adesso il disegno di legge, e già questo è importante che sia un disegno di legge, non un decreto, è stato rinviato, ma mi conforta molto una dichiarazione di Renzi ieri sera che dice il CDA sarà eletto dalla Camera, dalle Camere. Questo almeno la mantiene parlamentarizzata. Esatto. Senta. Il problema di fondo è capire, al di là delle fonti di nomina, com'è l'equilibrio dei poteri. Perché se tutti i poteri sono all'amministratore delegato, nominato dal governo, il CDA ha soltanto dei poteri limitati di ratifica, non mi sta bene. Se il CDA ha un potere, come dire, nella logica dell'equilibrio dei poteri, di determinare le linee editoriali, di essere più orientato al prodotto, di fare le nomine, insomma di svolgere il proprio mestiere di indirizzo e controllo, allora, perché no? Allora. Però mi faccia leggere. Sì, sì, diciamo, sì, è chiaro. Vedremo la riforma. Vedremo i dettagli. Verro, le devo chiedere, è la prima volta che lei parla pubblicamente dopo che il Fatto Quotidiano pubblicò un fax risalente a qualche anno fa con Berlusconi Premier, in cui attribuito a lei, in cui lei scrisse a Berlusconi che c'erano trasmissioni che la preoccupavano. E quindi lei voleva... Intanto è stato lei a scrivere questo fax? Guardi, io ci sono, allora, andiamo velocemente sul fax, ci sono tutta una serie di elementi che non mi tornano, perché sono passati 5 anni e soprattutto perché io non ho mai avuto e non ho copia di quella lettera nella mia segreteria, quindi... Quindi cioè, l'ha scritta lei o no? Nel senso, perché i giornali dicono che lei ne ha riconosciuto la paternità. Allora, siccome ci sono tutta una serie di cose che non mi tornano, io vorrei aspettare la chiusura dell'indagine dell'azienda per capire esattamente quello che è successo, ma voglio dire, secondo me questo è un fatto irrilevante, un fatto interno, perché il contenuto di quella fax lì è al 101% mio, cioè lo sottoscrivo in pieno. E quindi? Ma perché? Quindi è suo, cioè questo voglio dire. Quelle robe lì, io le ho dette in consiglio di amministrazione non so quante volte, e le ho dette in dichiarazioni pubbliche, in interviste, ma tantissime volte. Ma posso dire, mi riallaccio al discorso di prima, pluralismo. Cioè, io in quella lettera lì, altro non dicevo, quello che ha detto la GCOM più di una volta, con toni francamente molto più, come dire, ultimativi di quelli usati da me. Però capisce che scrivere al Presidente del Consiglio dicendo alcune trasmissioni mi preoccupano, c'è la sensazione che si vogliano bloccare queste, modificare. No, vede, questa è un po' una lettura maliziosa, perché io espressamente dico, allora, io ho sempre detto nella mia vita che il pluralismo si declina aggiungendo e non togliendo, quindi non ho mai pensato di poter chiudere nessuna trasmissione, ho semplicemente detto, ribadito quello che ho detto tantissime volte, preso atto che ci sono queste trasmissioni che io temo siano, come dire, fazioso, un po' orientate, cerchiamo di equilibrare tutta una serie di cose che possono, come dire, aumentare il tasso di pluralismo. Mettere paletti, questo. I paletti sono il pubblico, ma perché il pubblico deve essere al 98% tutto da una parte, al 2%? Cioè, guardi, in commissione di vigilanza io non sapevo questo particolare. Sì. così specifico. Cioè, Gaspari ha detto che tutte le volte che andava in certi programmi lui poteva portare tre o quattro ospiti suoi, tutti gli altri erano già decisi dalla produzione. Lei capisce che questo... Quindi uno dei paletti era il pubblico. Non è, l'altro paletto era la scelta dei cosiddetti esperti. Cioè, sì. Non puoi sempre scegliere esperti che abbiano un cappello. Ho capito, ma non c'è l'autonomia, voglio dire, poi uno risponderà l'autonomia del conduttore, delle redazioni, e poi risponderanno con gli ascolti, risponderanno con. Certo che c'è l'autonomia della linea editoriale, eccetera, però, come dire, alcune cose di contorno, diciamo così, che secondo me sono di buon senso, che io torno a ripetere, sono state stigmatizzate proprio nelle modalità, in quello che le sto dicendo io, anche dalla GCOM, perché poi la GCOM se la prende con la RAI, dice, possono orientare certe cose, non so, al pubblico. Certo, però in questo fax c'è anche la segnalazione della nomina di Susanna Petrone a direttore di Rai 2. Ecco. Tra l'altro, se lei si va a leggere i giornali di quell'epoca lì, il nome di Susanna Petrone era un nome fatto e strafatto su tutti i giornali come possibile direttore. E io in quella lettera dico soltanto che mi piacerebbe tanto che il direttore generale, che ha i poteri di proposta, possa pensare di proporre possiamo concludere, cioè, è sua questa lettera, perché lei dice io mi riconosco al 101%, però non so se l'ho scritta io, mi sembra c'è qualcosa, un inghippo che mi sfugge, ecco. Ma le sfugge, io quei giorni lì non ero a Roma, tanto per dirgliene una, capito? Quindi, no, però facendo riferimento ai colloqui di domenica scorsa a San Siro, era San Siro, certo, forse, certo, ha incontrato Berlusconi. Certo, non c'è dubbio che io Berlusconi due giorni prima l'avevo visto a San Siro, e quindi sicuramente, come dire, nella sostanza quella lettera è mia, però mi consente che vorrei... Siccome non la trova, vorrebbe trovare. Dov'è questa lettera? Perché? Ma perché questa lettera è stata sottratta dalla mia segreteria, o non c'è mai andata, ed è spuntata oggi o ieri quando è stato? Ma perché lei archivia tutto, cioè fa una lettera... certo che archivia tutto. Archivia tutto, e non la trova. E vabbè, Verro, intanto la ringrazio, vedremo, perché la RAI, ma teme qualcosa? No, perché tanto a maggio finisce il CDA anche, cosa vuole che succeda in due mesi? Ma poi così che... sono stato, cioè questa è la seconda uscita pubblica su questo tema, perché sono stato in commissione di vigilanza per il discorso, e francamente credo che anche, come dire, tutta la commissione si sia resa conto che in quello che io ho scritto non c'è nessun segreto di Stato, c'è soltanto l'esplicitazione in forma privata di quello che io ho sempre detto. Allora intanto la ringrazio, Antonio Verro, grazie per essere stato con noi, molto gentile, consigliere amministrazione della RAI. Andiamo al traffico. 24 mattino. Lavoratori! Chi non lavora? Ci state mandando le mail a 24 mattino e radio24.it, vi chiediamo di raccontarci il vostro lavoro, un lavoro che ci stupisca, qualcosa che non conosciamo, stiamo raccogliendo dei lavori strani, ma in maniera positiva, belli. Oggi voglio salutare Alessandro, un mio omonimo. Buongiorno Alessandro. Buongiorno Milan. Che fai di bello nella vita? Allora, di lavoro organizzo hackathon, ovvero delle maratone per hackers. Hackathon, esatto. Maratone per hackers. Esatto, maratone per programmatori informatici. Ma stiamo parlando di cose illegali o... Scusa, no, la mignoranza. Perché insomma, maratone per hackers. No, vorrei capire di più, cosa vuol dire maratone per hackers? Diciamo che ci siamo ispirati a un format americano che si chiama Hackathon, un format chiaramente nato nella Silicon Valley, che si sta diffondendo sempre di più anche in Italia, ce ne sono ormai uno ogni due settimane. Mm-hmm. E l'idea è proprio quella di fatto di sfruttare la tecnologia e l'informatica a servizio delle aziende, per cui quello che abbiamo fatto è orientare questo format verso i settori tradizionali e ogni mese chiamare dalle 3 alle 4 aziende per lanciare delle sfide a ragazzi che ovviamente sappiano programmare applicazioni, siti, disegnarli e diciamo stupire queste aziende con delle soluzioni innovative. quindi fantastico, cioè, quindi chiamate tutti degli esperti informatici, li radunate e fate tutto questo non per, che ne so, entrare in qualche sito dove non si può entrare e scatenare guerre nucleari, no. Vabbè, però sono cioè, ecco, la definizione hackers è una definizione di per sé negativa, eh? È una definizione di per sé negativa, però ovviamente in questo caso è una definizione comunque amata dagli sviluppatori, perché comunque sono quelli più bravi, ovviamente, quelli che si riescono a intrufolarsi, per cui in questo caso l'hacking è inteso a fin di bene, per cui nella logica di cambiare le regole di un'azienda e rinnovarla dall'interno. Ovviamente la finalità è proprio. Vabbè, ma che lavoro è? Cioè, nel senso, perdonami, ci guadagni? Cioè, no, lavori in un'azienda? È un lavoro che faccio all'interno di un incubatore di impresa, per cui noi nella nostra quotidianità acceleriamo imprese in ambito digitale, per cui ci occupiamo di startup nel resto della settimana. Ed è un format che è nato proprio per favorire questo, sia per far partire nuove startup che per mettere in contatto questi ragazzi di talento con le aziende. Per fantastico. Cui no, Alessandro, ti chiedo perché io sono un homo antitecnologicus, sono proprio un ignorante totale. Mio figlio, che ha 6 anni, mi insegna come si usa l'iPad più o meno, e quindi voglio dire, non capisco da questo. Noi abbiamo ragazzi, guarda, giovanissimi durante l'evento, perché abbiamo anche ragazzi di 15 o 16 anni che. Con il consenso dei genitori partecipano, la cosa poi pazzesca è che per 24 ore non stop loro. E appunto, cioè 24 ore, cioè stanno, in questo è la maratona, stanno lì finché non risolvono i problemi. Stanno lì fino allo scadere delle 24 ore, alla fine delle 24 ore, come in un talent show, vengono a presentare le loro soluzioni, vengono giudicati dall'azienda e poi da lì partono delle collaborazioni con l'azienda. Esatto, cioè voi create anche lavoro, nel senso che i migliori se li acchiappano poi le aziende. Esatto, sì, l'azienda è prevalentemente lì per quello e per ovviamente cercare innovazione nel lavoro di questi ragazzi. Alessandro, sei stato chiarissimo, io ti ringrazio, ho capito perfino io, quindi vuol dire che sei stato perfetto, ti ringrazio davvero e con te chiudiamo questa settimana. Scriveteci il vostro lavoro che ci stupirà. 24 mattino è radio24.it, a lunedì 6:30. 24 mattino.